se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Charlie Chaplin partecipò a un concorso per sosia di Charlie Chaplin a Monte Carlo e arrivò terzo. Quella è una storia assurda. Settembre, due sono le cose: o i parlamentari rinunciano a questa pensione privilegiata, a questo vitalizio mascherato, o sarà l'Armageddon dei partiti e lo verranno a celebrare centinaia di migliaia di cittadini sotto al Parlamento. Statene certi. Centinaio. Ma come tu puoi dire cose del genere delle persone che hanno perso un posto di lavoro? Ma di rispetto nei confronti degli italiani. Ma devi avere rispetto. Bene all'Italia. Hai capito? Rinuncia al tuo vitalizio, non devi neanche parlare stasera, perché tu c'hai. Io non Guarda, ce l'ho, tu devi ce l'hai. Avere rispetto. Ce l'ha il vitalizio? Lei ce l'ha il vitalizio? No, non ce l'ho, sì, il vitalizio. Allora lei. Di Brandi, per lei favore. Al già lei è simpatico come un riccio, non dico dove. Italiani. Per rinuncio favore, al vitalizio. Ma stasera per siete favore, tutti scatenati, abbiate pazienza, fermatevi un po'. Io volevo proprio sapere dov'era sto riccio che era simpatico come un riccio, non dico dove. Invece io vorrei proprio saperlo, ero lì attaccato alla TV. Dov'era sto riccio, caro Lorenzo Nespoli, secondo te? Come mi sono divertito. Peter Bescapè, dov'era questo riccio? Lo so, allora. Imbarazzante. Signori, siamo quasi a punto, ormai, per la conduzione 4.0 di Vincenzo De Luca, che mi sostituirà presto. In una botta su. Va bene, ci siamo anche oggi alle 6:32 minuti. Vi segnalo che a Milano ci sono 6 gradi, mentre in questo momento a Singapore, ci informa Giulia, 30 gradi, cielo blu e nessun governo ladro. Grazie Giulia. A Roma Pigneto 7 gradi. Vabbè, poi una battutaccia su Vladimir Luxuria, lascia perdere Alessandro. A Senago 7 gradi e mezzo, così, vabbè. No, ma questo è fantastico. Guido a Ciudad Guayana, Venezuela. Ci stanno ascoltando, guarda il numero 0058. Ci stanno ascoltando lì, 26 gradi, nuvolado, nuvole. Grazie, saluto a Guido. Ciudad Guayana, Venezuela. Cos'è? Chissà se c'era Dinolfi. Che fai a Ciudad Guayana, Guido? Dici cosa fai a Ciudad Guayana? Che città è poi del Venezuela? Prendimi tutto, caro Lorenzo. Vedi un po' di capire. A Cernusco sul Naviglio 2 gradi. Vabbè, che mistizia. Poi in corvetto il sole splende alto, amico mio, ma se c'è buio a Milano che fai, mi pigli per il culo, Alberto? Vabbè. Sull'autolaghi 4 gradi e poco traffico, un'alba bellissima, Andrea. Ecco, rimani lì come al solito, quelle 2 orette sull'autolaghi, imbottigliato, e poi dopo mi fai sapere. Ad Alessandria 5 gradi. Quello a Milton Keynes, Buckinghamshire, UK, 7 gradi, fa frecce, credo che sia Proprio la tipica esclamazione. A Francoforte, Luca ci fa sapere che ci sono 7 gradi in questo momento. A Bari 6 gradi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a Silvietta Brasca. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Milano porta Genova gradi 7.9. Ma ragazzi, la cronista precisa da 30 anni precisa. L'altro giorno parlavo con Paolo Brosio e ti ha citato. No? Urca. Esserne contento. No, ricordava che eravate un bel certo. gruppuscolo all'epoca altro di Tangentopoli, che vi volevate che, tutti altro. Bene, che non c'era questa. Sì, c'era competizione, ma c'era anche un volersi così aiutare. Insomma. Sì, beh, è stato insomma. L'inizio di un di una carriera per tutti. No, Brosio. E poi lui ha visto la Madonna. Poi lui ha visto la Madonna, quindi ha fatto un upgrade. E tu sei ancora ancorata lì a fare pezzi su pezzi alla 7. Sì, siamo qua, ma sono contenta, meglio così, guarda. Va bene, insieme a Silvia Brasca voglio salutare il ritorno. Signori, amici di Napoli, amici di Napoli, amici partenopei, napoletani tutti, c'è uno juventino qui con noi, c'è Federico Novella. Buongiorno Federico. Buongiorno, buongiorno. Come va? Ciao, come va a Napoli? Puoi passeggiare con calma tu a Napoli? Ma non lo so, non ci ho ancora provato, non sì. sono così coraggioso sinceramente. Fallo dicendo anche con una bella maglietta tipo vi abbiamo purgato queste cose qui, 3-1 per noi, così su piazza. C'è un video su internet di un ragazzo che è andato in giro per Napoli con la maglietta della Juve, sì. l'hanno fermato dopo 30 secondi. Ma chi? Detto, i carabinieri l'hanno arrestato? No, sì, esatto, l'hanno portato in caserma e là l'hanno spaccato forte. A Monza ci sono 5 gradi, se volete. A Monza 5 gradi, signori. Umidità 67%, con una leggera brezza da ponente. È tutto bello, manderemo tutto a Mauro Corona. Sapete che Mauro Corona ha stizzito qualche giorno fa in onda, ha detto, ma questa è la parte, è veramente il momento più inutile di una radio seria come quella, come Radio 24. Proprio una cosa che non serve a nulla. Che malosone. Vabbè. Sì. Almanacco del giorno dopo. Esatto, ma insomma mi preparo il proverbio del giorno se vuoi. Sì, magari. Sì, è per creare una community, così una comunità. Allora, esatto. Signori, dobbiamo aprire il Parlamento. Ci sono dei guai seri, pare. Ecco, appunto. Forza, gente. Dei guai seri. Per i Renzi, diciamo così, i Renzi. C'è un'indagine. Hanno arrestato Alfredo Romeo per un appalto con la Consip, quell'azienda che controlla tutti gli appalti delle forniture per la pubblica amministrazione. E che succede? Succede che più che altro è indagato, è un po' tirato dentro Tiziano Renzi, il babbo, avrebbe, secondo gli inquirenti, ottenuto dei soldi per questi appalti che poi non sono concretizzati, insomma. Si sa, l'accusa è brigava per ottenere dei soldi per facilitare degli appalti di Alfredo Romeo con la Consip. Ovviamente dal padre, come dire, è facile, anche se non indagato, saltare subito a Matteuccio. Caro Federico, sai cos'è il prototipatore? È il giorno del il prototipatore. Se non avete... Sono un po' tutte parti in commedia, c'è cioè il facilitatore, il prototipatore. Sì. È difficile quando in casa hai un problema di bricolage e non riesci a trovare un prototipatore. Esatto, è così. Allora, italiani, imparate questo neologismo. Lo scoprirete oggi sui giornali. Se non lo sapete, dovete attrezzarvi anche nel mondo. Il prototipatore, definizione. Silvia Brasca? Il prototipo allora è quello allora, che aiuta. Non hai studiato, ho provato. È colui. Erano i consulenti che aiutano a stendere Ma sì, non esiste in realtà. Ma sì, cioè, esatto. Quello fa la matrice, quello che diciamo che compila la matrice di un bando che io voglio vedere chi l'ha fatto, perché ecco. Quel bando spacchettato mi sembra sì. non so quante sezioni. Mm-hmm. E si inizia così a creare la terra di mezzo. Cioè il prototipatore sarebbe colui, in questo caso tale Gasparri, non quel Gasparri là, Marco Gasparri, architetto della Consip, che si occuperebbe di creare i bandi e i capitolati, i prototipi, quindi colui che facilitava secondo l'accusa, eccetera. Vabbè, però veniamo al succo della questione. Questa cosa può in qualche modo incidere nella corsa al rilancio di Matteo Renzi? Silvia, che pensi? No, certo, non ce ne si salva più, secondo me. Sì, adesso finché non si arriverà a un chiarimento giudiziario, come abbiamo visto quello appunto di Graziano a Napoli, nel bene o nel male, mi raccomando, e questo sta lì, questa. Un padre, adesso c'era stata una prima inchiesta, adesso c'è la seconda, ti puoi immaginare. Certo. Quindi insomma, di certo già sui giornali il sospetto è questo. Sul giorno ho letto questo titolo, la preoccupazione di Renzi, e se monta come il caso Etruria. Ecco Federico, insomma questa è una gatta da pelare mica male. Assolutamente sì. Poi adesso non sappiamo se le accuse che hanno portato in carcere Romeo sono concrete, sono tutte da dimostrare. C'è di mezzo anche Lotti, che è accusato di aver rivelato dei segreti. C'è di mezzo anche il babbo di Renzi, che ha fatto appunto avrebbe fatto da facilitatore, ma tutta l'indagine ruota intorno all'entourage renziano, anche gli imprenditori che ci sono dentro. È difficile, secondo me non farà male soltanto a Renzi questa storia, farà male a tutto il PD, perché l'altra grande verità per il momento è che uno che sostituisca Renzi nel PD non c'è. E non è sicuramente Orlando, non è neanche D'Alema, c'è D'Alema, vabbè, anch'io c'ho la foto di mia nonna in camera, però D'Alema ha fatto il suo tempo, e quindi se bombardano Renzi bombardano tutto il PD. A proposito di prove, premessa, io non ho letto le carte dell'inchiesta, questi faldoni di 4.000 pagine, per oggi il Fatto Quotidiano mette una foto con il biglietto che sarebbe un po' una delle prove decisive, attenzione. È bello però questo ritorno al passato, attenzione. No? Ci lamentiamo che comunichiamo solo con WhatsApp, invece è bello tornare un po' ai vecchi usi e costumi di una volta. No? Si legge in questo pizzino. 30.000 euro per mese per T come Torino, puntato, T come Tiziano, cioè, T come Totò, non lo so, T come, non lo so, oppure incontri con L, sarà mica Luca Lotto. Luca, oppure L sarà anche, non lo so, con aiutatemi, L. Lucci, Enrico Lucci potrebbe Enrico essere Lucci, Enrico Lucci, no. No, non lo so. E poi c'è un incontro con M anche, caro Alessandro. Con M. Io vorrei capire come Matteo Salvini se la sbriga da questo incontro. Ah no, scusate, era un altro Matteo, era Matteo Renzi. Sei andato dalle parti di Napoli ultimamente? No. 30.000 no. L'incontro con Milan, giusto. Con Milan. Potrei essere il prototipatore. No, adesso si scherza, però voglio dire, questa sarebbe, Silvia, tu che sei una cronista giudiziaria, insomma, dai, questa sarebbe una delle prove. Incontri con T, con L, con M, soldi a T. 30.000 al mese sono tanti. 30.000 al mese, ragazzi, 30.000 al mese. 30.000 al mese sono tanti. A te farebbe un po' investo. Romeo, il fatto che dal 2008, dalla prima inchiesta, siamo sempre lì, il premio gli diamo, lo facciamo subito via con il premio Giachetti. Non lo so, vuoi fare? No, dopo magari. No, dopo c'è di meglio. Insomma, quando ce lo si ritrova ancora, viene da pensare, ma. Io ho letto parte, cioè qualche pagina, qualche. Diciamo 30 pagine, qualcosa. Questo, ci vedi qualcosa di concreto? Tu che hai il fiuto da Tangentopoli? No, ci vedi di concreto no, però è un quadro imbarazzante. Il quadro è imbarazzante. Sentite Lotti, Luca Lotti. Buongiorno. Marroni, l'accusa di essere stato lei. Salve a tutti, signori. Arrivederci. Lei è tranquillo, ministro. Arrivederci, tranquillissimo. Arrivederci, grazie. Tranquillissimo. Arrivederci, grazie. Va bene, dai, poche dichiarazioni in questi momenti. Che cosa devi dire? Insomma, Silvia Brasca non ci vede granché di concreto, però il quadro. No, appunto, c'è un quadro, poi dopo la parte. Del resto ne hanno arrestato uno, e quindi. No, è chiaro. Vogliamo sentire anche Di Maio, così chiudiamo il quadro su questa vicenda. Di Maio, 5 Stelle, vai. E noi dovremmo chiedere a Matteo Renzi di rendicontarci tutte le entrate della sua fondazione, perché i soldi di uno arrestato per corruzione sono nella fondazione di Matteo Renzi, con cui questa forse è la cosa più da spiegare, Federico, che per carità, cioè non è che uno può controllare chi, però 60.000 euro da Alfredo Romeo sono finiti alla fondazione di Renzi, anche questo, insomma, politicamente peserà questa vicenda. Sì, vabbè, questo potrebbe non voler dire nulla, sicuramente, come diceva anche Silvia, al di là dei problemi giudiziari c'è un problema di opportunità politica che bisognerà chiarire, spiegare, e che peserà. Peserà anche il fatto, io leggo, che questa famosa gara più grande d'Europa, intorno alla quale girano milioni e milioni, è ancora stata bloccata. Tra l'altro l'azienda di Romeo risulta a tutti gli effetti in graduatoria tra gli aggiudicatari di alcune parti di questo lotto, quindi almeno bloccate tutto. Questo possiamo chiedere al signor prototipatore, se ci toponiamo un attimo. Sì, esatto. Potresti bloccarmi un attimo la gara, visto il casino che sta uscendo fuori. Pare che l'amministratore delegato di Consip, Marroni, fa un'intervista oggi a Repubblica, la leggerò poi da segna stampa, e dice: bloccheremo tutto, ho anche presentato le dimissioni, sono state respinte da Padova. Beh, insomma, bisogna rimanere, adesso ci vorranno, come dire, tempi burocratici, ma si spera, cioè, con la persona indagata e arrestata che fa parte di questo appalto, cos'altro deve succedere? Non lo so, per l'appalto, almeno blocchiamo e rifacciamolo, vediamo. Detto questo, l'ultima cosa al volo: alla fine dispiace che tutte le bombe politiche, nonostante tutto, nel 2017 più delle volte sono bombe giudiziarie. Sì, è perché è un po' di una piccola tradizione italiana da questo punto di vista. Perché rinunciare alle nostre consuetudini? Ho già sentito che torna tra i renziani, in questo caso, le parole proprio "è un complotto della magistratura". Mi sembra una cosa che non ho mai sentito io. È un complotto. La giustizia e orologeria. La giustizia e orologeria. Sì. Credo che anche questa. Giustizia, pensavamo orologeria. Di esserne usciti, pensavamo. E invece no. Allora entriamo nel traffico, dai. Cretino! E vuole solo pigliare lo stipendio! E io pago! Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Altro che parlare dei diritti degli omosessuali che devono avere figli e i diritti di un bambino di avere il padre e la madre, dove li mettiamo? Vorrei fare un appello alla sindaca Raggia. I cittadini romani ti hanno votato e tu fai la pappagalla con Peppe Grillo, che lui fa il cri cri e tu rispondi cri cri. No, con il cervello lo tieni tu, non ti offendere, però insomma ti hanno votato e tu hai comandato. Che cazzo c'entra Grillo? Signor Milan, sa come si dice dalle mie parti? Chi ha la pancia piena non capisce chi è alla fame. E Renzi mi sembra piuttosto cicciotto. Hey baby, what's in your eyes? I saw them flashing like April lights. Questo paese è pronto per la regolamentazione dell'eutanasia. Se ci fossero dei parlamentari che vorranno proporlo già in questa legislatura, ho anche l'impressione che la maggioranza non cambierebbe molto, perché quelli che sono contro a tutto. Noi chiediamo delle regole, un'assunzione di responsabilità, e che questa assunzione di responsabilità sia presa e assunta adesso. È sempre Marco Cappato, eh? Oh, mi piace che i nostri ascoltatori stanno cominciando a diventare lombrosiani come vuole il nostro Mauro Corona. Io lo appoggio tutte le volte, sapete che è Renzi Cicciotto. I nostri ascoltatori cominciano, bravi, cominciamo a ristituire questo lombrosianesimo da diffondere nel mondo. sono attenti ai particolari. Sono attenti ai particolari, sì. Allora, io non lo so, ecco, Marco Cappato alla fine ci è riuscito, si è autodenunciato, è accusato ora, indagato dalla Procura di Milano per istigazione al suicidio, cos'è, questo è reale, ipotesi di reato, non vedeva l'ora, Silvia, no? L'aveva detto, cioè denunciatevi, vado. È coraggioso, insomma, tu dici coraggioso. Sai che però qualcuno adesso dice sta un po' esagerando, cioè vuol dire lì su una su un piedistallo a portare avanti una battaglia politica legittima come tutte le battaglie politiche, e però come dire anche lui allora ha cavalcato l'onda emozionale di un caso ha cavalcato dai è dal 2008, cioè io dico dal 2008, diciamo, ti ricordi la corsa in Parlamento su quando ci fu il caso di Eluana, sì. quel pomeriggio al Senato, allora poi su quel pomeriggio vergognoso, allora adesso facciamo, certo dobbiamo fare la legge, non se ne è fatta più niente. Niente. Insomma, no, è vero che lui da... Ed è coraggioso, sì, ed è coraggioso. C'è un vuoto che è grande come la disperazione di chi si trova in quella situazione e che paga fior di milioni, cioè fior di appunto di migliaia di euro. Sì, però io dico se il clima è quello, vedo qua avvenire dall'altra parte, corsa al fine vita, ecco, vogliono fare una legge affrettata, se il clima è questo, anche a te Federico, se il clima poi è quello di partire subito con i proclami, le urla, cioè è proprio la classica situazione in cui alla fine non si fa nulla, si butta tutto in cacciara. Secondo me alla fine finisce tutto in cacciara, perché tu non puoi regolamentare un principio così importante, così intimo, sull'onda dell'emozione per un caso di cronaca, che è quello del DJ Fabo. Non lo puoi fare, perché se tu dici di farlo adesso perché sei spinto appunto dagli eventi, tra un mese tutti si saranno dimenticati. Quelli che sono contro naturalmente insabbieranno tutto, e quelli che sono a favore diventeranno sempre meno. Ma sì, è una situazione, cioè in Italia reagiamo sempre sull'onda emotiva delle cose. Erano in commissioni affari sociali, cioè sono stati discussi, cioè bisogna portarli appunto, in Parlamento. Appunto, ma non si fa nulla, Poi per te questa vicenda, guarda che io sono favorevole per dire all'eutanasia, quindi. Sì. Cioè, non, quindi mi dichiaro, anche se ho dei dubbi anche qui, l'unico dubbio che non è un dubbio etico, l'ho detto anche ieri, che mi spinge a pensare che poi noi italiani saremmo quelli magari nelle sacche un po' più umili di povertà a dire oh, c'è da coppa al nonno, oppure coppate il nonno adesso anch'io, che c'è la legge. Questa non è Napoli però, per par condicio ho fatto Napoli, ho fatto un po' in Veneto, ho fatto il Veneto, insomma, perché sennò dopo problemi. Ti accusano a Napoli sì, in Veneto no, adesso in Val d'Ostano non lo so dire, in Pugliese neppure, però ci siamo capiti, no? Però tu dici giustamente, il principio è giusto, l'applicazione concreta in Italia è un po' più difficile, è un po' come le centrali nucleari. Io sono favorevole alle centrali nucleari, ma non sono favorevole agli appalti delle centrali nucleari, perché non so come li gestirebbero. Cioè, sospetto che avremmo la solita via italiana, in cui poi scopriamo degli scandali, no? di gente che, di medici che prendono dei soldi per accoppare qualcuno, magari... Intanto già quella sul testamento biologico, basterebbe quello, basterebbe un primo passo. Per quello allora dico che Cappato è coraggioso, perché comunque cioè, l'onda emotiva del DJ Fabo è vero, però almeno che se ne continui a parlare. Sì. Io aggiungo un'altra cosa, facciamo anche delle regole per le cosiddette cure per togliere il dolore ad alcune persone, cioè le famose cure palliative che spesso sono vietate, per far sì che poi qualcuno, che tutti possano decidere anche lucidamente che cosa fare in quei momenti, no? No, senza dubbio, ma il tema è talmente complesso che se una cosa sulla cosa siamo d'accordo, se si tratta con l'onda emotiva non se ne viene a capo di nulla. Non se ne viene a capo di nulla, perché sono urla, strepiti. Il caso Eluana Englaro, che è un caso diverso, l'abbiamo detto, però cara Silvia Brasca ha ricordato bene. Ci furono assassini, queste urla nel Parlamento, l'avete ammazzata, e così se si parte e poi così dopo, non è fatto più nulla. Certo.

hanno una strategia da clan. Se vengono attaccati, si vendicano sui parenti di chi è attaccato. È la strategia del clan dei macachi. Ma chi se ne frega?